24 mattino. Italiani e greci, una faccia, una razza, come diceva un celeberrimo passaggio di un film molto amato, esiste una condivisione di storia, di sentimenti, di anche di difetti che ci permette di superare o comunque gestire in queste fasi complesse la nostra vicinanza con la Grecia e quindi alimentare di fatto una solidarietà mediterranea all'interno delle complessità europee. Ne parleremo più tardi, ne parleremo con voi cari ascoltatori, ne parleremo con gli ospiti, andremo a sentire ad Atene proprio, raggiungeremo una collega giornalista che ha vissuto l'attesa dell'esito di questa trattativa notturna in Belgio, a Bruxelles, appunto nella sua città. Ne parleremo poi con il sindaco di Cava dei Tirreni, Marco Galdi, che pensate ha deciso deciso di devolvere la sua indennità da amministratore locale al popolo greco in segno di solidarietà, diventando molto famoso, diventando celebre immediatamente attraverso i media greci nei giorni scorsi, per poi diciamo fare il giro del Mediterraneo e atterrare da noi. Parleremo di questo, lo faremo naturalmente più tardi. Adesso ripartiamo come di consueto dalla nostra edicola. Salvezza, non solidarietà. Non ci scostiamo da questo tema per adesso. Dunque, Adriana Cerretelli scrive nella notte: l'accordo era ancora in fase di costruzione, ma alcune riflessioni vanno oltre l'accordo, erano presenti prima e sopravvivono. Ecco che cosa scrive Adriana Cerretelli. Dice: un percorso a ostacoli fino alla fine, estenuante. È un gran punto interrogativo. Riuscirà l'accordo dell'Eurogruppo a segnare il momento di svolta per Grecia ed Europa, il principio della fine graduale della crisi dell'euro? Già questo direi è l'interrogativo. Proprio in questi minuti, dopo che la trattativa notturna di Bruxelles è arrivata dunque alla conclusione, lo ricordo, è arrivata nella notte, per cui nei titoli troveremo diciamo atteggiamenti diversi tra punti interrogativi e assenza di titoli, nel senso che alcuni quotidiani hanno preferito aspettare. Adesso l'accordo è stato trovato, l'esito, ma è stato incerto fino all'ultimo. Da un lato veniva dato per scontato che l'Europa avrebbe dovuto fare per la Grecia, ma le modalità, le condizioni, anche le tensioni all'interno dell'Eurogruppo erano tali che insomma le certezze assolute in fondo non abitavano dalle parti di Bruxelles. Intanto il premier greco Lucas Papademos si dice molto soddisfatto. Questa è un'agenzia di pochi minuti fa, del piano di aiuti che alla fine ammonta a 237 miliardi, un piano concesso dai partner europei, dai creditori privati. Siamo molto soddisfatti, dice Papademos al termine appunto delle 14 ore di negoziato. Da una parte per la cancellazione di 107 miliardi di euro di debito pubblico di Atene, dall'altra per il prestito di 130 miliardi di euro entro la fine del 2014. Il premier ha poi ammesso che la piena attuazione dell'accordo raggiunto nella notte dipenderà dalla capacità di Atene di attuare il programma di risanamento economico concordato per tempo. Quindi ha aggiunto: sono convinto che il governo che si insedierà dopo le elezioni previste ad aprile sarà ugualmente impegnato in questo senso. Ma dunque l'interrogativo di Adriana Cerretelli questa mattina sulla prima del Sole 24 ore. Allora, siamo davvero arrivati al momento di svolta? Oppure, o non sarà invece niente di storico, prosegue, ma solo l'ennesima goccia di un lento ma inutile stillicidio che alla fine non impedirà al tavolo di saltare. Al primo salvataggio di Atene, quel primo salvataggio dei 110 miliardi, scattò in un'atmosfera quasi surreale di incoscienza e anche di incompetenza collettiva, con Angela Merkel che senza scomporsi si permetteva di tenere a bagnomaria l'emergenza greca per non rischiare di compromettere, e fu invano, il suo score nelle elezioni regionali. Nessuno allora credeva seriamente alle devastanti potenzialità di contagio di un'economia e di un debito tutto sommato di entità marginale. Parliamo del 2-3% del PIL dell'Eurozona. Prosegue Cerretelli, e dice: questo secondo salvataggio, altri 130 miliardi e il taglio appunto del debito, non può permettersi di fallire, anche se c'è già chi dice che si limiterà semplicemente a rimandare nel tempo il giorno del giudizio. Ecco, non può fallire per diverse ragioni. La prima è che il contagio greco ha dilagato alla grande. La seconda è che il gruppo del nord, Germania, Olanda, Finlandia in testa, con lo spettro dell'insolvenza in agguato, appare sempre meno incline a rischiare di aiutare i reprobi con prestiti, sia pure ben remunerati. Di solidarietà naturalmente neanche a parlarne. Solidarietà, questa è una parola che useremo questa mattina più volte. Quindi di solidarietà, scrive Adriana Cerretelli, naturalmente neanche a parlarne, nemmeno in termini di stimoli veri alla crescita dell'economia europea. Le condizioni leonine imposte alla Grecia, il timore di ritrovarsi un giorno a subirne la stessa sorte, alimentano d'altra parte sentimenti antitedeschi che, se non fermati al più presto, alla lunga potrebbero distruggere l'Europa invece di guarirla dai suoi malanni, alimentando la nascita di perniciosi estremisti e nazionalismi in democrazie già provate dall'impatto con la crisi. Direi che qui sono raccolte tutta una serie di temi già presenti nell'attualità in Grecia, in Ungheria, in diversi paesi dell'Europa, in forma diversa, minoritaria, anche all'interno del nostro paese, quando la politica reagisce, diciamo, con piani di fuga più o meno improbabili, appunto, alla complessità di quella che è la costruzione europea. Insomma, vedremo. Ho cominciato quindi dal Sole 24 Ore. Il titolo d'apertura è Stretta finale sul piano E, ma a centropagina anche fisco dal 2014, gli sconti a tempo. Il fondo anti-evasione servirà a coprire l'aumento delle detrazioni per le famiglie e anche naturalmente la riforma del lavoro, con di fatto la presa di posizione di Monti che dice riforma del lavoro entro marzo, anche senza un'intesa, con tanto di polemiche collegate. Vediamo allora le aperture siamo partiti dal Sole, proseguendo via Repubblica. Tasse evasione, ecco il decreto, venerdì l'approvazione del piano. Questo dunque la scelta di Repubblica, che, come dire, si è tenuta prudente sull'Europa. A centropagina lo scandalo al Policlinico di Roma, in coma, legata da 4 giorni alla barella, il ministro dice ispezioni in tutti gli ospedali. Ecco, per la Stampa e anche la stessa scelta, evasione stretta di Monti, a centropagina una bella foto di Renato Dulbecco, l'addio di Dulbecco, Nobel del Genoma, la fotografia scelta è quella di Sanremo, sono i suoi saluti a Sanremo. E naturalmente di qualche anno fa. Per il Corriere della Sera, il piano di Monti e Cameron, dunque la lettera di cui avete sentito anche all'interno di GR24, da cui riparte documento pro crescita di 12 paesi guidati da Italia e Gran Bretagna, che viene sviluppato in un commento affidato a Federico Fubini, che dice: Merkel e Sarkozy si scoprono minoranza. Infatti non capita tutti i giorni che questa Gran Bretagna, quella di David Cameron, firmi un documento perché Bruxelles faccia di più e non di meno. Ma noi torniamo insieme tra qualche minuto. 24 mattino. 7:35 minuti, ancora un saluto da Gigi Donnelli al microfono questa mattina, da Peter Bescapè in regia. Dunque, il piano Monti e Cameron, dicevamo, a proposito di scelte delle prime pagine, in questo caso Corriere. Dunque, Merkel e Sarkozy che si scoprono una minoranza, e questo è un po' il fattore, diciamo, di novità in un contesto europeo, diciamo, è introdotto senz'altro dall'affermazione progressiva, anche se appunto parole da usare con prudenza, ma insomma di certo sulla scena europea, da quello che è stato già da più fonti definito il ritorno dell'Italia. E dunque in questo caso, come scrive Fubini, dice: non capita tutti i giorni che questa Gran Bretagna, quella di Cameron, firmi un documento perché Bruxelles faccia di più. E in sintesi, prosegue, ieri improvvisamente Parigi e Berlino si sono svegliati in minoranza sulle liberalizzazioni, l'apertura del mercato, lo sono sul piano politico, su quello del peso economico e ancora di più sul terreno della leadership culturale. È accaduto con un documento inizialmente ispirato da Mario Monti, sul quale poi i tessitori politico-diplomatici del governo italiano hanno convinto i britannici e gli olandesi a collaborare. E a proposito di tessuti e di lavori di prospettiva in un contesto estremamente dinamico, ancora poche settimane fa parlavamo in tutt'altra chiave del ruolo britannico e della posizione Camerun, adesso siamo quasi per certi aspetti sulla via del ribaltamento. Cosa mi riferisco? Da una parte sul fiscal compact, dunque su quell'accordo che ha spinto il Regno Unito a tirarsi fuori, oggi sembra addirittura la Francia candidata a rimettere la questione sul tavolo. Perché? Perché François Hollande, quindi candidato socialista all'Eliseo nelle elezioni di primavera, ha già detto che se dovesse vincere, a quanto pare le possibilità sono piuttosto forti, almeno stando ai sondaggi attuali, bene, lui pretenderebbe di ridiscutere quel trattato. Poi ci sono i temi elettorali. Antonio Polito scrive sempre sulla prima del Corriere, dice: l'Europa deve temere i suoi elettori come negli anni 30 del Novecento, ce lo diranno i popoli di Grecia, Francia, Italia e Germania nel giro di un anno e mezzo. Il rischio senza precedenti è che crisi e disoccupazione aprano una stagione di lunatici di sinistra e razzisti di destra, tanto per usare l'espressione del Guardian. Insomma, una vera e propria guerra, quantomeno di parole e di intenzioni, tra debitori e creditori. Ed ecco che siamo tornati di nuovo a questo tema, in maniera diversa, al grande tema della solidarietà. Quindi una guerra tra debitori e creditori. Il commento, appunto, che viene ripreso questa mattina da Antonio Polito si sviluppa allora su questo filone, su questa possibilità che il contrasto si affermi, soprattutto su questa distanza, cioè la volontà di impegnarsi in questa direzione, il sentimento che è quello poi dei greci in questi giorni di essere strozzati da una parte e di essere spremuti dall'altra, invece quello dei tedeschi, degli olandesi e dei finlandesi. Ad Atene, dove si vota ad aprile, scrive ancora Polito questa mattina, questo dicono i sondaggi, ma la Grecia può far danni solo a se stessa concedendosi l'effetto placebo di un default, quindi sul fronte della reazione agli accordi del voto. Il voto in Francia invece può produrre sconquassi, ecco, lo citavamo prima, perché Parigi è da sempre la vera misura dell'integrazione europea. Se l'Inghilterra può starne fuori e la Germania è condannata a starci dentro, aggiungerei, diciamo, condannata in termini storici, la Francia ha il potere vero di fermare la macchina europea. E Hollande, dunque François Hollande, ha detto che se vincerà la fermerà per rinegoziare da capo il trattato. Ora, in sé non c'è nulla di illegittimo, ci mancherebbe altro di ciascun paese a mettere in discussione di volta in volta i contenuti dei trattati, ma vedete quanto rapidamente queste dinamiche si trasformino. Da una parte abbiamo un asse Sarkozy-Merkel, che anzi è stata oggetto evidentemente da una parte di stabilità e dall'altra di insofferenza crescente, a cui si contrappone un futuro che in tempi brevissimi potrebbe essere molto diverso. Da che parte stare, si chiede infine Polito. Al momento in Italia sugli spalti prevalgono i tifosi dei debitori, vedremo anche con i nostri ascoltatori, magari dopo le 8:30, se anche i nostri ascoltatori si sentono parte dei debitori, cioè quelli che invocano pietà per i greci e che aizzano la resistenza per i greci pretendendo politiche espansive, iniezioni di credito, interventi illimitati. Ovunque si oppone questa immagine, dunque, a quella del grigio monetarismo tedesco, e a quella immagine opponiamo il dinamico keynesismo obamiano. In effetti anche negli Stati Uniti si è svolta una guerra tra debitori e creditori, con il Tea Party nel ruolo di tifoso dei creditori e Occupy Wall Street, il movimento di protesta, a tifare per i debitori, una guerra che ha prodotto altro debito. Però Mentre lì i soldi si chiamano dollari e passano comunque di mano tra americani, qui le risorse illimitate, e usa le virgolette Polito, che dovrebbero, quelle risorse illimitate che dovrebbero salvare i debitori di ogni nazionalità, sono sempre e solo dei tedeschi. Questo il commento su questa Europa, davvero sono tutte riflessioni molto interessanti e, ripeto, riflessioni che vanno aggiornate continuamente, perché la storia viene fatta, quantomeno la storia dell'Europa senza dubbio viene fatta in ore come questa, in notte come questa, che hanno portato, lo ricordo, all'accordo sulla Grecia. Ma c'è dell'altro, e ci ricorda, a proposito anche di elezioni, il Corriere, come Putin schiera 400 missili ai cosacchi. Qui c'è una foto a centropagina, una foto notizia che rimanda all'interno. Vladimir Putin annuncia spese militari colossali e lo fa a 2 settimane dalle elezioni presidenziali. Insomma, cosa non si fa per il voto? Naturalmente voto, ma c'è anche dell'altro, è economia, sono posti di lavoro in chiave russa per un grande apparato che è quello appunto del militare industriale. Cambiamo tema e cambiamo testata. Al giornale: salviamo i nostri marò. L'Italia che manda i soldati a rischiare la vita in giro per il mondo ha il dovere di difenderli, scrive il giornale diretto da Alessandro Sallusti, soprattutto dagli intrighi politici, da chi calpesta il diritto come l'India. E il rapporto inviato dalla nave a Roma conferma: spari in acqua. L'editoriale di Vittorio Feltri: il governo deve fare la voce grossa con le autorità indiane. È inammissibile che i nostri militari vengano trattenuti, diciamo pure arrestati, e probabilmente processati da un tribunale estero per un presunto reato commesso a bordo di una nave italiana, che è territorio italiano, quindi inviolabile. Questa la scelta a tutto campo dell'apertura, centropagina la foto di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i marò fermati dalle autorità indiane, e per Libero, quasi fotocopia, tira fuori i marò, ancora diciamo più diretto, ed è appello a Monti per i 2 militari che rischiano la pena di morte. Ecco, al di là di appunto dell'invocazione, ovviamente pienamente condivisibile, c'è una questione intorno a questa vicenda che lascia davvero perplessi, e che è il meccanismo di consegna dei soldati. Noi siamo un paese con una storia e una tradizione di alleanze. Chi ha qualche anno ricorda anche più di una volta, insomma, una certa sofferenza dell'opinione pubblica italiana rispetto ad eventi che, per esempio, hanno coinvolto militari di potenze alleate straniere in Italia. Un caso per tutti: chi ha memoria del Cermis, dunque un incidente drammatico che costò la morte di molte persone per una manovra spericolata e criminale di un pilota americano, appunto, in volo in Trentino. In quel caso, quello che creò, oltre al dolore della perdita di molte vite in una maniera veramente assurda, ma conflitto, fu la decisione immediata degli Stati Uniti di rimpatriare il personale militare e di metterlo al sicuro, diciamolo pure, dalla giustizia italiana. Bene, oggi sul Foglio ci si interroga, al quotidiano di Ferrara, di Giuliano Ferrara, ci si chiede come mai questa apparente leggerezza nel nell'affidare il nostro personale militare, i 2 militari italiani, alle autorità indiane in questo contesto. Allora, dietro al fermo dei marò c'è, scrive il Foglio, il fallimento della diplomazia, perché la Marina Militare ha ignorato la procedura e non ha protetto i suoi. È infatti palpabile, scrive appunto oggi il Foglio, l'amarezza per come le autorità italiane hanno gestito la vicenda del petroliere Erik Aleksi. C'è una procedura che, sintetizzando, dice di prelevare e rimpatriare gli elementi a rischio. C'è un avviso della Marina che dice: in caso di contenzione con effetti giudiziari, restare in acqua internazionale. È una procedura peraltro che cui tutti fanno ricorso, e qui viene proprio citato il caso dei marini di Aviano che causeranno la strage del Cermis. Insomma, invece i 2 marò sono stati fermati e devono comparire davanti a un giudice indiano per un atto di cortesia, viene detto. Rischiano persino la pena di morte per il reato che viene loro contestato: uccisione di 2 pescatori scambiati per pirati in acque internazionali. Ecco, l'articolo poi prosegue e e analizza anche quelle che vengono definite le contraddizioni sulla prima parte dell'indagine, però io mi fermerei a questo punto. È davvero possibile pretendere, anche assolvere certi meccanismi diplomatici di fronte a comportamenti di questo tipo? È davvero giusto che persone a cui viene chiesto di tutelare con le armi, evidentemente, gli interessi, in questo caso nazionali, in acque lontane, siano poi affidati, e speriamo naturalmente per pochissimo tempo, a giustizia di paesi stranieri? Forse no, a mio avviso non lo è. Grazie dunque per gli aggiornamenti. Dal Messaggero a Roma, dunque, è sciocca al pronto soccorso, legata per 4 giorni alla barella, inchiesta della Procura. Naturalmente qui è stato un caso invece innescato da due parlamentari, due medici parlamentari di PD e PDL che appunto in una visita a sorpresa, poi magari sapremo qualcosa in più di questo meccanismo, ma comunque in una visita negli ospedali romani, appunto, al Policlinico hanno scoperto questa situazione. Questa situazione che, è sicuramente legata a 4 giorni alla barella. Ecco, questa è la prima impressione anche che abbiamo ricevuto ieri, e piano piano abbiamo cominciato a conoscere maggiori dettagli di una situazione che sicuramente merita una denuncia di un sistema che fa un'enorme fatica, di un sistema che, non dimentichiamolo, nel corso di molti anni ha subito tutta una serie di tagli e che direi in qualche modo non può essere, non può non pagarne le conseguenze. Comunque il responsabile, nella forma più alta, naturalmente il ministro Balduzzi, che oggi è intervistato proprio dal Messaggero, dice: intollerabile, c'è troppa disorganizzazione. Gli chiedono: ministro, allora si è fatto un'idea di cosa è successo esattamente? Lui dice: sulla base degli elementi di cui dispongo, pare che il trattamento clinico della signora sia stato corretto. In parole povere, le sono state date le medicine giuste. È il profilo organizzativo che non ha funzionato, e quel che è grave è che nella struttura sono emerse anche altre inappropriatezze, sempre sotto il profilo organizzativo. Allora, cosa intende dire, ministro? Mettiamola così: il pronto soccorso ha fatto il suo dovere, ma poi sembra essere venuto a mancare il dialogo tra lo stesso pronto soccorso e il resto dell'ospedale. Questo sembra non essere un caso isolato. Da quel che si capisce al momento, il protocollo che fissa modi e tempi di trattamento dei pazienti al pronto soccorso, sulla base di afflussi ragionevolmente stimabili, non sarebbe stato rispettato. Ecco, questa è la posizione del ministro, però c'è anche un'altra parte della storia che emerge da altre interviste che non vi leggo per questioni di tempo, di una situazione che coinvolge ed è destinata a coinvolgere sempre di più la sanità, ma anche il sistema sociale italiano, che è quello di un paese in cui le persone fanno un'enorme difficoltà nel gestire le malattie in famiglia. Questa signora, affetta da Alzheimer, è stata più volte portata all'ospedale dai familiari, che descrivono appunto in altre testate, in altre parti dello stesso Messaggero, la complessità di fare i conti tutti i giorni con una malata molto grave, una malata che difficilmente in molte famiglie si è in grado di gestire. E questo naturalmente apre tutto un altro tema, che è quello dell'assistenza, che è quello della capacità delle famiglie proprio di assicurare quello che i familiari malati meritano, quindi il tempo, le cure, ma che non sempre le circostanze mettono in condizione appunto di assicurare. Dopodiché ci si rivolge alle strutture sanitarie e si trova un meccanismo che da anni riceve indicazioni: qui si è fatti per guarire, per intervenire, non per assicurare delle lunghe degenze. Roma dunque, sciocca al pronto soccorso. Abbiamo ancora 3 minuti, direi, e li dedicherei a un altro aspetto che ci riporta ai temi della politica. Per l'Unità è il caso Monti, confronto aperto nel PD. Dopo appunto l'intervista 2 giorni fa di Veltroni, Bersani dice non martoriamoci con l'articolo 18 e l'intervista a Rosy Bindi su questo tema, ma soprattutto il caso Monti e la politica, la percezione appunto di questo governo, di questo particolare governo, oggi occupa parecchie pagine. Da una parte, ritorniamo così al Sole 24 Ore, il punto di Stefano Folli, che parla dell'effetto Monti sulla politica e dice i partiti non sono pronti. In un certo senso il governo tecnico, scrive Stefano Folli, unendo via via i tasselli della sua azione, riesce ormai a esprimere una visione coerente del paese. Siamo quindi nella più autentica dimensione politica, tanto più che nessuna coalizione tra quelle che si sono succedute nell'ultimo quindicennio è riuscita ad essere altrettanto efficace nell'indicare i propri obiettivi. Poi c'è anche Filippo Ceccarelli su Repubblica, che parla di questo esperimento tecnico e dice però dopo 3 mesi il consenso per l'esperimento tecnico si avverte, la popolarità appare in crescita. E anche chi si pone in maniera esplicitamente diversa, come accade a Marcello Veneziani sul Giornale, che dice non chiedetemi di sposare Super Mario, e affronta da destra la natura appunto dell'appoggio da affermare, da assicurare al governo Monti. Sin dall'inizio, dice, ero resto dell'idea che il governo Monti vada sì criticato ma sostenuto. Se mi dite che questa è la vera destra, io vi rispondo che sì, questa è la destra economica, tecnocratica, bocconiana, ma non è la mia destra popolare, nazionale, mediterranea e comunicata. Voi replicherete che quest'altra destra non c'è e io rispondo è una buona ragione per restare libero e scapolo. Insomma, 100 giorni del governo Monti e c'è un grande dibattito trasversale sulle testate, quasi che tutti vogliamo, anzi tutti i politici vogliono prendere le distanze, però fanno una grande fatica a farlo. Noi ci sentiamo a partire dalle 8:20 circa, dopo. Mattino 8:22 minuti, ancora un buongiorno da Gigi Donelli, da Viola Bottoni questa mattina in assistenza, da Alessandro Longoni e Miriam Lucchetti che hanno realizzato questa puntata con noi. Dunque, italiani greci, una faccia, una razza, punto di domanda. Marco Galdi, sindaco PDL di Cava dei Tirreni, quindi primo cittadino del Salernitano, ha deciso di devolvere la sua indennità da amministratore locale al popolo greco in segno di solidarietà. Questo l'ha fatto qualche giorno fa, perché dice l'Europa è il banco di prova. Abbandonare a se stessa la Grecia in questo momento vuol dire rinunciare definitivamente a un'idea di Europa, quell'unica idea di Europa che amiamo e che vogliamo. Così il sindaco, il tutto naturalmente aggiornato a questa notte di trattative, che dopo 14 ore ha portato a un accordo sulla Grecia. Tra circa 10 minuti saremo anche ad Atene, oltre che a Cava dei Tirreni, con i nostri ospiti, per sentire qual è la prima reazione dei greci alla decisione assunta nella notte all'accordo siglato a Bruxelles. Prima però dobbiamo riprendere un argomento che abbiamo affrontato ieri. Ieri abbiamo parlato di cellulari, di elettromagnetismo, abbiamo raccontato anche di una certa complessità nel condividere le informazioni su questo tema. Lo spunto era l'inchiesta di Riccardo Stagliano, toglietevelo dalla testa, dal collega giornalista e scrittore. Allora, per fare un passo in avanti in questa direzione, nel senso dell'informazione, abbiamo invitato un ricercatore del CNR, che è il dottor Settimio Grimaldi. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, la domanda è piuttosto semplice. La sensazione che abbiamo condiviso anche con i nostri ascoltatori, che è sempre un discorso un po' da affrontare con le pinze, è che spesso non porta le informazioni e la chiarezza che vorremmo. Non c'è chiarezza oppure diciamo c'è una certa reticenza. Ma dal punto di vista della ricerca, a che punto è l'informazione sugli effetti delle onde elettromagnetiche nell'uso dei cellulari? Beh, basti ricordare che nel maggio dello scorso anno un'agenzia internazionale di ricerca, l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, che ha sede a Lione e che è sotto la diretta giurisdizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, elaborando e analizzando tutte le pubblicazioni che si sono prodotte nell'arco degli ultimi 20 anni, sia quelle pro che contro, cioè quelle che evidenziavano un danno che quelle che non lo evidenziavano, bene, l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro ha definitivamente ammesso che le onde elettromagnetiche nella frequenza dei nostri telefonini cellulari sono dei possibili carcinogeni. Quindi questo deve ovviamente far scattare un principio che è il principio di precauzione e di massima cautela nell'utilizzo di questi telefoni. Quindi uso diciamo consapevole, informazioni nell'uso, ma le chiedo anche in termini, lei ha detto 20 anni, che è la storia in fondo della nostra innamoramento collettivo per questo dispositivo che ora è già qualcosa di molto diverso da un telefono, ieri ne abbiamo parlato, ma insomma in che modo sono cambiati gli apparati? C'è una rispondenza da parte dell'industria, perché chiaramente non tutti le emissioni sono uguali. C'è stata una grossa rispondenza, io credo, che è dovuta in massima parte dall'attenzione che la stampa dà a questo argomento, ma anche alla nostra attenzione, cioè di coloro i quali cercano di capire se queste radiazioni siano o no dannose per l'organismo. Io ricordo che 20 anni fa avevamo telefoni come l'ETAX che funzionavano emettendo un'enorme quantità di campo elettromagnetico, ora attualmente i moderni telefoni cellulari sono sicuramente meno impattanti da questo punto di vista. Diciamo anche che forse la tecnologia è andata più avanti della ricerca, perché l'avanzamento tecnologico è stato così veloce, mentre le nostre ricerche ancora sono lì ferme più o meno a capire se la tecnologia GSM è dannoso o meno, e ora già siamo ad altri tipi di tecnologie. Ecco, da un lato la tecnologia del cellulare in quanto dispositivo, ma in questo contesto è legittimo inserire anche la grande diffusione del Wi-Fi. Per esempio, tutti noi credo amiamo entrare in uno spot Wi-Fi, soprattutto se abbiamo appunto l'abitudine di connetterci. Ci sono implicazioni? Sono lo stesso tipo di onde? Guardi, sono lo stesso tipo di onde, hanno una frequenza leggermente diversa, questo è vero, ma la cosa che più mi colpisce e che io vorrei che i nostri ascoltatori, i vostri ascoltatori sappiano, è che si sono spesi miliardi di euro, miliardi di dollari per cablare, cioè per stendere i cavi sull'intero pianeta Terra, ma vogliamo invece andare in wireless negli ultimi centimetri, ovvero sì, abbiamo i cavi che passano l'Atlantico, il Pacifico, arrivano fino al nostro, alla nostra città, arrivano fino al nostro numero civico, però in casa vogliamo andare in wireless. In effetti in casa si può anche evitare di andare in wireless e quindi minimizzare anche questo inquinamento, che è un inquinamento elettromagnetico squisitamente, nettamente moderno. Ecco, la ricerca, e siamo in conclusione, comunque si sta muovendo, si parla sempre di, diciamo, disparità di mezzi tra l'industria e la ricerca. Voi rappresentate un caso importante, come appunto il CNR. Ci sono i mezzi, c'è la ricerca in questo campo così delicato? Direi proprio di no. Purtroppo stiamo vivendo un momento di crisi, ma il CNR questo momento di crisi lo sta vivendo da molti più anni del paese. Si spende molto poco in Italia per la ricerca e questo effettivamente è un grave danno, perché abbiamo un patrimonio di scienziati che potrebbe dare molto di più se impiegato a pieno ritmo. Grazie al dottor Settimio Grimaldi, lo ricordo, il ricercatore CNR dell'Istituto di Farmacologia Traslazionale. Dunque i temi che riguardano la salute vanno affrontati, noi lo facciamo quotidianamente anche con il nostro appuntamento di Essere Benessere, ma anche nella cronaca, nella condivisione, e nessuno vuole demonizzare, ci mancherebbe, le nuove tecnologie, ma informarsi richiede investimenti nella ricerca, investimenti che abbiamo ancora una volta sentito mancano. Bene, adesso cambiamo pagina. Allora, se volete condividere allora questa riflessione sulla Grecia all'800 24 00 24, siete d'accordo nel sostenere la Grecia a tutti i costi o quasi, o esistono dei punti oltre il quale non dobbiamo andare, o semplicemente non vogliamo andare? Insomma, quanto è forte questo senso europeo nella nostra vita quotidiana? Ne parliamo tra un momento. 24 mattino. Marco Galdi, sindaco PDL di Cava dei Tirreni, ve l'ho anticipato qualche minuto fa, è tra i nostri ospiti questa mattina per parlare appunto della Grecia, per parlare del nostro rapporto, del nostro sentimento nei confronti della Grecia, della crisi che il paese sta vivendo e, ricordiamolo, insomma, della crisi che riguarda la Grecia, ma che riguarda tutti noi. Allora, Marco Galdi, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Allora, ho detto che lei ha deciso di devolvere la sua indennità da amministratore locale al popolo greco. Sì, è una decisione della settimana scorsa, quando come dire, la situazione relativa alla Grecia sembrava precipitare. Come le è venuta questa idea? Ma devo dire la verità, credo che sia stata una scelta, almeno dal principio, molto emotiva, nel senso che ho diversi legami anche personali con la Grecia, o amici da lunga data, ho trascorso lì tantissime vacanze, e dunque vedere una situazione così difficile, un Parlamento che adottava misure draconiane in un contesto ormai di povertà acclarata, e l'Europa che sembrava non avvedersene, francamente mi colpiva molto e mi lasciava un senso di impotenza, rispetto al quale, insomma, la mattina di parte discorso, recandomi al lavoro al comune verso le 8, 8 e un quarto, insomma, mi sono messo al computer, ho buttato giù questa lettera ai potenti d'Europa e d'Italia per richiamarli in qualche modo, come dire, al debito morale, culturale che l'Europa tutta, l'Italia e direi in particolare la Magna Grecia, dove io vivo, hanno nei confronti del popolo greco. Insomma, una sorta di dialogo del cuore sud-sud tra, lo ricordo, il sindaco Galdi e il sindaco di Cava dei Tirreni, quindi in campagna. Ma mi scusi, sindaco, gliel'ho già fatta ieri mentre chiacchieravamo prima di, appunto, di invitarla in trasmissione, gliela rifaccio. Con tutte le complessità che ci sono, non solo nella sua città, nella sua area, ma ovunque, non c'erano vicinanze cui da affermare prima, non lo so, disoccupati, problemi locali, territoriali? Perché arrivare fino in Grecia? Ma cominciamo col dire che io faccio il sindaco da professore universitario, da avvocato, e quindi rinunciando ad un'attività francamente molto remunerativa e che dà molta soddisfazione sul piano professionale, 24 ore su 24, proprio per cercare di dare una risposta a questo tipo di emergenze del mio territorio, e credo di dare al mio territorio molto di più di un emolumento di 1.100 euro al mese, francamente. Però, come dire, ci sono appunto tante ragioni, oltre a quelle del cuore a cui alludevo precedentemente, anche quelle della ragione, perché ritengo che l'Italia sia la prima nazione ad avere il rapporto fra debito pubblico e PIL più elevato in Europa, subito dopo la Grecia, certo non nei toni estremi in cui la situazione greca è precipitata, soprattutto dopo il denaro speso per le Olimpiadi negli ultimi anni. Certo, cioè lei, però, dice, mi sembra di capire, anche l'Italia come ha interesse a coltivare una cultura della solidarietà? Credo proprio di sì, peraltro devo riconoscere al Premier Monti di essere stato in qualche modo il protagonista di questa vicenda, conclusasi poche ore fa, credo positivamente, non ho avuto ancora ecco, modo di approfondire. Ecco, chissà se si è conclusa. Marco Galdi, lo ricorda, sindaco di Cava dei Tirreni. Allora io intanto saluto Andrea Gibelli, vicepresidente assessore all'industria, artigianato della Regione Lombardia, buongiorno. Buongiorno a voi. E Vicky Markaki, che è giornalista appunto greca, che è a Atene. Allora, buongiorno Vicky Markaki, grazie di essere con noi. Allora, la sensazione questa mattina a Atene, che una pagina si sia conclusa, cioè la sensazione è quella che si tira un sospiro di sollievo oppure no? Buongiorno, per i politici sì, per la gente comune c'è un attimo di riassestamento, stanno aspettando a capire che cosa significa tutto questo per la vita di ogni giorno, la vita di ogni giorno che è diventata molto pesante. Per quel che riguarda la tua domanda, per l'Italia aveva già pensato Celentano, allora magari il sindaco poteva già pensare alla Grecia. Il sindaco lo amiamo, devo dire che in Grecia il suo gesto ha avuto un grande riscontro, non certo per i soldi, certo, ma perché quel slogan di siamo tutti greci, che devo ricordare perché non l'avete ricordato abbastanza, Eva, oddio non mi viene il nome, la vostra storica che l'ha rilanciata per prima dalle pagine del Corriere ben 2 anni fa. Ci riflettiamo tutti, andiamo avanti intanto, quindi siamo tutti greci, questo vi scalda il cuore. Riscontro. Per ragioni di cuore infatti, per ricordare semplicemente che non siamo solo quelli che hanno fregato l'Europa, non siamo solo questi che hanno fregato i soldi, ma siamo anche questi che qualcosa hanno dato a quell'idea dell'Europa. Questo dunque il commento a caldo di Vicky Markaki. Torno invece in Italia. Andrea Gibelli, ancora grazie di essere con noi. Cosa ne pensa di questa iniziativa? E questa mattina qual è il sentimento? È che si sia voltata una pagina, che insomma le cose possono cominciare ad andare meglio? Ma indubbiamente la notizia di questa mattina, se si guarda la prospettiva dei mercati, è sicuramente un dato positivo, almeno di un'assunzione di responsabilità. Rimane sullo sfondo l'idea di questa Europa e il caso greco, sposando la tesi di chi mi ha preceduto, che sul piano emotivo e sul piano diciamo della eredità storica è paradossale proprio in ragione dei rischi che l'Europa corre, che l'idea diciamo di democrazia nata in Grecia rischia di finire dentro a questa prospettiva di natura finanziaria che la faccia proprio morire nel paese dove la democrazia è molto dell'idea d'Europa che oggi fa parte della nostra cultura, rischia proprio di morire nel posto in cui è nata. Però al di là delle condizioni diciamo di natura economica e di natura emotiva, non dobbiamo però distogliere l'attenzione rispetto ai problemi che ci sono sullo sfondo, su un'idea di un'Europa che attraverso l'euro ha e sta mettendo in ginocchio economie che prima dell'unificazione di somma di stati e non con un'unificazione di natura politica ed identitaria dei popoli europei ha portato un paese che, come ricordava il sindaco, anche se non sono d'accordo molto di alcune delle sue posizioni, aveva portato un paese che aveva avuto un rilancio tra gli anni 70 e gli anni 80 in maniera importante dopo la crisi con Cipro, ad una situazione di non essere in grado di reggere la strapotenza di alcuni paesi europei che hanno usato l'Europa per togliersi da alcune situazioni. Allora Gibelli, lei, come lo ricordo, esponente della Lega Nord, tra l'altro rappresenta anche nelle sue parole molto chiaramente un clima di presa di distanza che identifica nel contesto europeo, nei meccanismi, addirittura alcuni hanno parlato in queste settimane della cupola che c'è lassù nel nord Europa, una distanza che cresce. In Grecia, Vicky Markaki, questa sentimento ha portato in queste ultime settimane veramente a scavare nella storia. Abbiamo riappreso di anziani partigiani che hanno partecipato alle manifestazioni. Oggi di sicuro il sentimento di avere una troica presente a tempo pieno ad Atene non potrà che aumentare questo sentimento. Allora, ci sono momenti storici che per forza fanno rivedere la storia. Per essere sinceri, noi abbiamo vissuto con il benestare degli Stati Uniti 7 anni di dittatura, durante i quali si è destrutturata completamente l'economia. Negli anni ai quali l'Europa strutturava il suo dopoguerra e creava un'industria, noi abbiamo vissuto gli anni del laicismo catastrofico della dittatura, che ha veramente creato questo stato non stato di niente. Tutto questo si è vissuto con il benestare degli Stati Uniti, che molto probabilmente, la storia dice, avevano non tollerato ma creato il colpo di Stato. Ecco, ma questo ci porta lontano. Io vorrei fare una domanda, mi scusi, ma non è che a furia di vedere la storia, appunto, gli Stati Uniti da una parte, oggi si parla delle responsabilità della Germania? Non è che si esternalizza, per usare un termine brutto, sempre la responsabilità nazionale? Principale contro la classe politica greca. Chiaro. I greci ce l'hanno principalmente con i loro politici, forse ce l'hanno anche con loro stessi, che hanno tollerato, hanno votato e hanno creato questa classe politica. Fatto sta che quelli sono. Sentirsi commissariati nella propria democrazia è una cosa molto molto pesante. E questo è chiaro, e credo che ciascuno di noi inevitabilmente reazioni a catena, anche irragionevoli. 8:48 minuti, gli ascoltatori. Paolo ci chiama da Palermo, buongiorno. Buongiorno. Ci a dica. Tutti. Allora, il punto del siamo tutti greci ci porta a una riflessione, cioè quella che è inevitabile che tutti noi pensiamo e vorremmo veramente che la Grecia si salvasse, in quanto fa parte della nostra cultura, cioè, o perlomeno noi siamo veramente la Grecia. Ma il punto non è questo, il punto è quello che veramente quelli che comandano, che hanno le fila, come dire, che tirano le fila, hanno deciso di farne della Grecia, ovvero la Troica, perché gli si sono chiesti al popolo greco, gli si è chiesto un'austerità, dei tagli non indifferenti, che regolarmente sia i politici che i greci hanno, i politici hanno approvato, i greci hanno subito. Quindi sotto questo punto di vista io farei i complimenti alla stoicità dei politici greci, ma anche un pochettino di ingenuità, perché è come se la Troica chiedesse delle cose che in realtà loro non avrebbero, come dire, dovuto accettare, e invece le hanno accettate. Grazie a Paolo, grazie a Paolo. Allora, che cosa hanno accettato da un punto di vista greco, Vicky Marcacchi, questa notte? Abbiamo detto più di una volta questa mattina il prestito, la riduzione del debito. Ecco, l'elemento chiave è davvero la presenza della Troica ad Atene? No, l'elemento chiave è che non c'è, molto probabilmente non ci sono soldi per lo sviluppo, ci sono solo soldi per ripagare il debito. La realtà è che nel 2020 avremmo forse ripagato il debito continuando a pescare tra le pensioni e il taglio agli stipendi base. Non si vede dov'è la via di uscita per lo sviluppo del paese, per riuscire veramente a creare un'economia in ascesa, così che effettivamente si paga il debito, si paga questo che si deve, ma c'è una via di uscita dal tunnel. Non si vede questo. Non si vede dove è il futuro e ricordiamolo che ad aprile si va al voto. Gibelli, il voto in Grecia, ma non solamente, c'è un vento davvero, come dire, le ragioni di cavalcare l'antieuropeismo sono diffuse nell'Europa di oggi. Non c'è un pericolo di giocare col fuoco alla lunga? Ma diciamo che tutte le strutture nate, diciamo, come organizzazioni possono essere messe in discussione, non c'è niente di inviolabile. Noi della Lega Nord riteniamo che sia opportuna una grande riflessione che faccia nascere una neo-Europa impostata in maniera radicalmente diversa. Non si fa nascere un paese come quello che oggi chiamiamo Europa come somma degli stati nazionali attraverso la leva finanziaria. Io sono d'accordo con la giornalista greca che fa riferimento al fatto che il grande limite dell'iniziativa della Troica è di natura finanziaria legata al debito e non allo sviluppo, perché c'è da ricordare un dato a margine, che il Mediterraneo e la Grecia libera potrebbe avere un grandissimo sviluppo, perché le merci cinesi attraverso Suez vanno ai porti del sud dell'Europa rispetto all'attuale posizione dei mercati nord europei, quindi ponendo i paesi sullo sbocco del Mediterraneo in una nuova situazione che paradossalmente sembrava abbandonata, di una centralità del Mediterraneo rispetto alla Cina. Grazie ad Andrea Gibelli. Insomma, io la vedo sempre quando si affrontano questi temi, la tentazione del ritorno al vecchio conio, come si diceva in alcuni spettacoli televisivi, la tentazione dalla fuga della responsabilità. Vicky Marcacchi, oggi lei ci ha raccontato, tra colleghi ci diamo del tu, di come i greci sicuramente vivano una lacerazione profonda, la responsabilità della classe politica è acclarata, dopodiché c'è l'opinione pubblica che vota la classe politica. Noi italiani affrontiamo spesso questo tema, voi ad aprile andate al voto, che succede? Questo è una grande incognita, perché non è vero che c'è un 40% di partiti di sinistra che dicono fuori dall'Europa. Fuori dall'Europa lo dice il Partito Comunista Ortodosso, che è un 8-10%, non è di più. Però non c'è dubbio che ci sarà una grande rivisitazione del panorama politico greco. Il partito che aveva vinto le ultime elezioni, il Partito Socialista PASOK, che aveva vinto con più del 40%, si dà oggi intorno al 10%. Se non 8%, è una catastrofe, non c'è dubbio, ma non si sa chi vince, non si sa se qualcuno governa, e questo è un dato che non c'è mai stato nel dopoguerra. Di solito c'era un partito che vinceva e governava. Vivremo anche questo, vivremo la italizzazione della scena politica con l'obbligo di fare delle alleanze. Questo può essere anche un bene, se si mette in testa che governare non vuol dire mettere i propri adepti nei posti chiave. Nei posti chiave. Grazie. Forse a Vicky Marcacchi. La presenza della Troica sarà utile. Almeno per questo. Grazie a Vicky Marcacchi, torneremo su questo argomento. E dunque sono le 8:54 minuti e 40 secondi. Guardo Peter Bescapè che mi guarda già storto. Volevo concludere con una battuta del sindaco Marco Galdi, che comunque ringraziamo perché è un gesto di solidarietà. Credo che non possa che onorare la città e la sua persona. Siamo davvero alla conclusione, ora tra pochi minuti aggiornamento GR24, noi ci sentiamo domani.